perché ci piace essere dalla parte di chi è meno ascoltato, dalla parte di chi è dalla parte degli ultimi in generale, e essendo molto vicini agli organizzatori di questa campagna, ci sembrava molto facile accedervi e molto, molto facile metterci la faccia, insomma. Come si svolgerà questa campagna? È una raccolta fondi che si fa sul sito di Chiama Chiama, è il nome della campagna, e chiamachiama.org è il sito da cui si possono accedere a tutte le informazioni e fare le donazioni, perché gli sportelli di ascolto per le donne che subiscono violenza hanno bisogno di una professionalità dietro a questo lavoro e quindi hanno bisogno di finanziamenti fondamentalmente. E la campagna è volta a sensibilizzare sia sulla necessità di questo, sia sul cercare di portare delle donazioni all'organizzazione Chiama Chiama. È necessario che gli sportelli siano tanti e siano costantemente aperti, insomma, di modo da dare la possibilità a persone che magari non vivono in centri abitativi grandi, nelle grandi città, di poter recarsi in uno sportello qualora abbiano bisogno, insomma, vicino a casa loro. A proposito di sportelli, è stato lanciato l'hashtag Sportelli Aperti e anche delle magliette con dei messaggi. Sì, noi nel nostro classico stile Voglio abbiamo in collaborazione con insomma, chi lavora nell'associazione Mondo Donna, abbiamo deciso di attivare, di scrivere degli slogan che sono tipici della nostra tipologia di comunicazione, in modo da far risaltare di più le esigenze legate al progetto. Come uomini, appunto, giovani, ne è stato parlato tanto, come vi ponete riguardo a questa tematica? Ci poniamo dal punto di vista di chi si sente un po' in difetto nella comunicazione, perché dobbiamo prendere parte al raccontare questa cosa al mondo il più possibile, perché è necessario far uscire le persone dalla paura di raccontare, e anche gli uomini devono prendere parte in questa cosa qui. E quindi noi cerchiamo di essere un po' dei capofila, diciamo così, anche se non è un bellissimo termine, però di essere un po' d'esempio per tutto il mondo maschile anche, di avvicinarsi al tema e cercare di sensibilizzarsi e sensibilizzare verso l'esterno. Oltre che a sensibilizzarci, noi in quanto uomini che probabilmente non siamo molto familiari con l'argomento, cioè è necessario anche noi capire da dove nascono certe dinamiche interne all'uomo che possono provenire da cose che sono umane, la fragilità, la difficoltà a riconoscere una propria debolezza. Capita a tutti questa cosa. È chiaro che è necessario evitare che si arrivi a certe manifestazioni di violenza. Come pensi sia possibile a proposito? Io parlando con Sara mi sono reso conto che tante cose non le so, anche solo essere messi di fronte a un'esperienza di una donna o di un uomo che dice: ragazzi, io sono arrivato a fare questo. Sono la mia donna e sono pentito e mi faccio schifo, perché io penso proprio che molte donne molto spesso arrivano a giustificare i propri uomini per il piccolo che ne so, ti dico, perché loro si pentono dopo. Gli uomini si pentono, quindi ci sono questi eccessi di rabbia che poi portano a del male, e questi eccessi di rabbia possono essere riconosciuti in ognuno di noi, secondo me. L'importante è sapere come gestirli. Io sono molto interessato per quanto riguarda queste cose, perché tutti possiamo essere colpiti da dei momenti come quelli. L'importante è sapere come averci a che fare. E a proposito, invece, prima parlavi del linguaggio musicale. Nel vostro caso specifico, hai paragonato un po' la nuova tendenza trap che effettivamente non ha peli sulle lingue e a volte magari dovrebbe essere un po' più cauta nel parlare. Potrebbero essere anche questo un linguaggio che magari viene preso davvero alla lettera? Beh, sai, non lo so, adesso non so perché ultimamente mi è venuta voglia di rileggere 1984. In quel caso si evidenzia quanto la riduzione del linguaggio sia sinonimo di una riduzione della capacità di lettura del grande pubblico. Agendo sul linguaggio, agisci sulla cultura direttamente, sulla testa delle persone. Adesso, io non è che mi stavo rivolgendo a tutti gli artisti trap, assolutamente. Ci sono degli artisti trap che mi piacciono tantissimo. Anche solo un Salmo che esce adesso, che ha, insomma, secondo me, la nostra stessa capacità di entrare dentro dei discorsi sociali, dentro dei discorsi di questo tipo. Io penso che un artista che sia tanto seguito debba farsi delle domande rispetto a che cavolo sta dicendo, e se in un pezzo utilizza una parola per dire donna, dice puttana, c'è un problema. C'è un grosso problema, perché poi quella cosa lì viene ripetuta da chi ti sta a ascoltare. Alla fine il linguaggio definisce chi siamo, quindi bisogna usarlo con... moderazione? No, con coscienza, e si possono dire le parolacce per raccontare una cosa giusta, invece dirle tanto per dirle o tanto per... diffamare o insultare non ha senso. Ultima domanda, visto che stiamo parlando di musica, che progetti avete in cantiere? Adesso stiamo scrivendo il disco, facendo un po' di ordine fra le varie priorità strettamente musicali al momento, capire un po' quando uscire. È uscito da poco il fumetto nostro, che parla proprio anche lì di una situazione di difficoltà di un ragazzo che si chiama Andrea nel affrontare lo sgombero di un posto. Un altro tipo di violenza. È un altro tipo di violenza.